Giro di Re. Fiabe e leggende della tradizione popolare italiana. Ciao, io sono Maurizio Mosetti e questo è Giro di Re. Fiabe e leggende della tradizione popolare italiana, senza destinazione di età. Sì, perché nell'Ottocento, quella che oggi noi siamo abituati a considerare letteratura per l'infanzia, non aveva una destinazione d'età. Era un racconto di meraviglie, una piena espressione dei bisogni poetici. Si tratta di fiabe e leggende della tradizione popolare italiana. Racconti di giovani immortali, zappatori musicisti, barbieri, orologiai, figlie da maritare, re, principi, bambini, ragni e sarcicce. Sono storie di ieri, di oggi e per sempre. Buon ascolto. Ragno e sarciccia. C'erano una volta ragno e sarciccia, che erano marito e moglie. Ragno un giorno uscì da casa e disse a Sarciccia di preparare la minestra. Sarciccia mise la pila sul fuoco, ma nello scoperchialla... Patapomfeti! C'è casco drento. Quando il marito tornò a casa, bussa e taribussa, ma nessuno rispondeva. Allora pensò bene di rompere la serratura. Appena entrato, sentì un odore. Era l'odore di sarciccia che se coceva. Figuratevi come si mise a piagne. Povera sarciccia mia, povera sarciccia mia. La porta gli disse: Ragno, perché piagni? Sarciccia è morta e io piagno. E io che sopporta, m'opro e me serro. Il banco fa la porta. Porta, perché d'opri e te serri? Perché sarciccia è morta, ragno piagne, e io che sopporta, m'opro e me serro. E io che so banco, marcio e m'abbasso. E la finestra gli fece: Pancheu, perché darsi e t'abbassi? Perché sarciccia è morta, ragno piagne, la porta sopra e se serra, e io che so banco, oh, marcio e m'abbasso. E io che so finestra, oh, sbatto. L'albero che stava di fronte alla finestra gli disse: Finestra, perché sbatti? Perché sarciccia è morta, ragno piagni, la porta sopra e se serra, banco s'arza e s'abbassa, io che so finestra, oh, sbatto. E io che so albero, mi spronno tutto. Via l'uccelletto e fa: Abbiru, perché ti frogni tutto? Perché sarciccia è morta, ragno piagni, la porta sopra e se serra, banco s'arza e s'abbassa, la finestra sbatte, e io che so albero, mi spronno tutto. Io che sono uccelletto, mi piglio tutto il culetto. L'uccelletto va alla fontana che gli fa: Uccelletto, perché te peli tutto il culetto? Perché se ciccia è morta, ragno piagne, la porta sopra si serra, banco se ci si abbassa, la finestra sbatte, l'albero si sprogna tutto e io che sono uccelletto, mi piglio tutto il culetto. E io che so fontana, mi secco tutta. S'affaccia il coco alla finestra e fa: Fontana, perché te secchi tutta? Perché sarciccia è morta, ragno piagne, la porta sopra e se serra, banco s'arza e s'abbassa, la finestra sbatte, l'albero se sprona tutto, l'uccelletto se pela tutto il culetto, e io che so fontana, a me secco tutta. E io che so coco, metto il culo sul fuoco. Vi è la regina e dice: Cacco, perché metti il culo sul fuoco? Perché sarciccia è morta, ragno piagne, la porta sopra e se serra, banco s'arza e s'abbassa, la finestra sbatte, l'albero si spronna tutto, l'uccelletto si pela tutto il culetto, la fontana si secca tutta, e io che so coco, oh, metto il culo sul fuoco. E io che so regina, metto il culo sulla farina. Vi è l'imperatore e dice: Regina, perché metti il culo sulla farina? Perché sarcice è morta, ragno piagne, la porta sopra si serra, banco sarse e s'abbassa, la finestra sbatte, l'albero si sfrona tutto, l'uccelletto si appena ciuccia arculetto, la fontana si secca ciuccia, il coco mette il culo sul fuoco, e io che sono regina, metto il culo sulla farina, e io... che so imperatore, metto il culo sul cacatore. Tiè! Giro di Re. Fiabe e leggende della tradizione popolare italiana.